Sono partito il 13 aprile. Alle ore 5. Non conosco la via che mi ha condotto qui, per questo non posso dare delle informazioni precise. Però in base ad alcuni elementi avvertiti durante il tragitto, posso dire quasi con certezza che si tratta di uno dei 20 distretti del Midwest. Probabilmente uno compreso tra il 12 e il 15, dato che gli elementi sabbiosi caratteristici... È il 15° distretto del Midwest. La temperatura media oscilla tra i 20 e i 25 gradi. Fuori è sereno, si accomodi. Il signore sarà presso da lei non appena avrà finito i suoi esercizi. 15° distretto, Midwest. Sembra che fuori sia sereno. Grazie. Dovere. Alle mele. Ecco cos'era. L'aria. L'aria in questa stanza è fresca. Intangibile. Non riesco a credere che sia vera. Dopo tutti questi anni sarebbe una cosa incredibile. Deve senz'altro trattarsi di aria artificiale. Non è affatto artificiale. È semplicemente filtrata. Conosce questo sistema? No. Un sistema di ventilazione di aria artificiale comporterebbe un dispendio di denaro e di energia che trovo assolutamente ridicoli. Differentemente il filtraggio dell'aria dalla superficie a questo bunker è un processo economico, forse più ingegnoso, ma sicuramente più economico di un intero sistema di ventilazione. Deve essere strano per lei. Deve ancora abituarsi, non credo possa ricordarsi com'era l'aria vera. Mi è caduta la mela. Ah, me ne faccio portare un'altra. Gradisce qualcos'altro? La ringrazio. Dell'uva, forse? Delle fragole? Delle arance? Ma scusate, come fate ad avere tutte queste? Anche l'acqua può essere filtrata. Grazie all'acqua, qualche lembo di terra ci offre ancora dei frutti. Pochi, certo, ma può. Scusa, hai detto acqua? Sì, ho detto acqua. Ma sta parlando di vera acqua? Detesto ripetermi. Sì, vera acqua. Potrei avere un bicchiere. Magari dopo. Certo. Mi scusi. Per cosa? Per averle chiesto... L'acqua non deve. Ha espresso un piccolo desiderio. Vuole davvero scusarsi per un piccolo, misero desiderio? Non lo definirei tanto misero. Non immagino cosa sarà in grado di desiderare. Dopo. L'abitudine ad avere ospiti. Le porgo le mie scuse. Non deve scusarsi di niente. Lo vede, nessuno dei due deve scusarsi con l'altro. Ma di questo parleremo dopo. Finalmente è arrivato. È sicuro che non vuole qualcos'altro da mangiare? No, non si scopre, non ho fame. Non faccia complimenti, lei è ospite in casa mia. Davvero non si preoccupi, è sufficiente quella. Mi assicuro? Assolutamente. Assolutamente cosa? Scusi? Assolutamente sì, assolutamente no. Assolutamente sì. Come vuole. Si sieda. Ti accomodo. Ha una palestra? Sì. Vedo che si tiene in forma. Quasi un'ora al giorno. Beh, non tutti i giorni dovrei... Com'è andato il viaggio? Comodo? Noioso? Lungo. Spero che l'abbiano trattata con tutta la cortesia dovuta. Sì, anzi, la ringrazio molto. Perfetto. Dunque, lei... Posso darle del tu? Cosa preferisce? Lascio scegliere lei. Le faccio una proposta. Non decidiamolo. In base a quello che accadrà durante la conversazione, ci daremo a volte del tu o del lei. Che ne pensa? Come preferisci. Naturalmente è stato avvisato che non potrà registrare o riprendere la nostra conversazione in alcun modo. No, questo non è stato detto. Mi scusi, non è stato perquisito l'ingresso? Sì. Ma nessuno ha detto niente a riguardo. E allora ho fatto bene, devo chiederle di mettere via quel registratore. Mi scusi, l'intervista. Sì. Se le regole sono queste, va bene. La ringrazio, e poi sappiamo entrambi che non si tratta di una semplice intervista, no? Ecco, era appunto su questo che volevo farle una domanda. Io sono... Lei ha una famiglia? Scusi? Lei ha una famiglia? Io volevo fare una domanda riguardo all'intervista. Rispondi. Non più. Capita spesso. A me è capitato. Anche a me. Quello che mi domandavo è il motivo. Non è un problema, voglio dire, non è detto che sia un problema. Non la seguo. Non è detto che sia un problema. Le ho già detto che detesto ripetermi. Non avere una famiglia. Non stavo chiedendo di ripetersi. Perché dovrebbe essere un problema? Non crede che lo sia? Dove sta scritto? Non avere una famiglia non deve per forza compromettere la vita di un individuo. Pensa che non voglia dire nulla. Ritengo che non sia del tutto negativo. Ti hanno amato almeno? Mi dica il motivo di questa intervista. Quando eri piccolo, per esempio, tua madre... Per favore, mi dica il motivo. No. Non ancora. Lei ha appena ucciso 1 milione di persone. Non esattamente. Nancy Babbage? Buonasera, signore. Oh, buonasera, come va? Benissimo, signore. E lei? Una favola. Aggiornamenti, prego. 1.732.000 persone. L'aggiornamento risale a 10 minuti fa. Grazie. Dovere, signore. Dovere, dice sempre dovere. L'ho programmata io, si chiama Nancy Babbage. Una delle cose migliori che abbia fatto in vita mia. Dare autonomia a un congegno è una cosa eccitante. Vi siete conosciuti, no? Sì, abbiamo chiacchierato un po'. Sa fare compagnia, vero? L'ho programmata anche per questo. Perché cos'altro? O quello che vuole. Le dia un anno, giocherà a tennis. Le bombe le sgancia già? Sì, non autonomamente, però no. Tornando a noi, lei ha appena ucciso 1 milione di persone. 1.732.000. Siamo precisi, per cortesia. 732 è un bel numero. Sì, è un bel numero. Oltre al milione, dicevo, non sottovaluti gli altri 732. Non ho nessuna intenzione di sottovalutarli. Non lo so. Lo so. Insomma, lei ha ucciso queste persone. Esatto. Lei ha sganciato una bomba sul distretto. Autorizzato. Sì, sul distretto numero 11, nella costa sudorientale dell'East Side, sì. Proprio così. Perché? Perché? Ho scelto l'East Side? O perché ho scelto il distretto numero 11? Perché l'ha fatto? Le interessa davvero? Sì. Non le credo. E per quale motivo? Perché non è interessante, non è questa la cosa affascinante. E che cosa crede che lo sia? Il come. Il come? Il come! Va bene. Allora mi dica il come. Avevo 6 anni quando mia madre se ne andò di casa. Divergenze politiche, dissero. Buffo, no? Così piccolo e già un esperto in materia di odio. Grazie a mio padre, o meglio l'uomo che ne vestiva i panni, con estrema fatica. Mio padre mi ha cresciuto nell'odio verso mia madre fino alla sua morte. Ero ancora un ragazzo quando mi resi conto che i suoi insegnamenti non avevano sortito l'effetto voluto. Cominciai a chiedermi chi fosse mia madre, dove fosse, cosa stesse facendo e perché mai. E poi mai aveva tentato di incontrarmi di nuovo. Ho fatto ricerche, ho speso fiumi di denaro per riaverla. Ma quando poi l'ho trovata era troppo tardi, la morte era stata più veloce di me. Abbandonai l'idea di avere risposte, accettai l'idea di non avere il diritto di sapere. E lentamente mi convinsi addirittura che fosse necessario che io non sapessi. E così è stato. Mi dispiace. Ma non è vero. Non importa, però, gliel'ho raccontato perché avevo voglia di farlo, non perché volessi la sua compassione. Tornando alle bombe. Come è morta tua madre? E perché hai chiamato me? Io lo so che è morta. Lo so anch'io. Perché me? Perché lei è un giornalista. Beh, tanti sono giornalisti. Tanti sono giornalisti, è vero, ma pochi hanno dedicato la loro intera carriera ad analizzare questa crisi economica. Beh, vorrà dire crisi climatica. Crisi climatica! La crisi climatica è solo una deriva della crisi economica. Perché me? Perché l'economia? Perché il mondo in cui viviamo, da anni ormai, non credi? L'economia c'è sempre stata. Florida in crisi, Florida in crisi. È un ciclo. Beh, da quanto tempo non è più Florida? Lo chiede lei a me. Beh, immagino lei sappia dirmelo. Beh, lei che si dedica all'argomento. Perché lei cosa fa? Beh, ci arriveremo dopo. Dunque, perché? Perché non la sopporto. Da quando è diventata un'arma, credo che sia sfuggita totalmente al nostro controllo. Per questa ragione mi pongo delle domande. E ipotizza delle soluzioni? Beh, forse non sono ancora così preparato. Ecco, sono d'accordo. Infatti quello che a me manca nei suoi articoli è proprio la soluzione al problema. Mi prefiggo di analizzare il problema, non di risolverlo. Ed ecco il suo perché. Mi scusi? L'intervista, posso offrirle una soluzione. Mi assicuro? Ancora non ha risposto alla mia domanda perché l'economia. Perché è una cosa importante. Beh, anche l'amore è importante, ma lei non scrive romanzi rosa, o sbaglio? I soldi sono più importanti. Anche dell'amore. Senza soldi, niente amore. Un pragmatico. Sono un giornalista. Spero si sia dato una risposta allora. Scusi, ha voluto dare una risposta che eludesse la mia domanda, quindi non mi chieda di esserne soddisfatto adesso. Senta, lei può continuare a giocare questo gioco con me, ma sape che so giocare anche io. Devi essere stato amato molto. Cosa te lo fa pensare? Un grillo. Un grillo nella mia testa. Si può amare in quantità. Si può amare in qualità. Tu cosa pensi? Io penso che ognuno di noi sappia a cosa serve l'amore e che per ognuno di noi abbia uno scopo specifico. Nel tuo caso? L'autocontrollo. Amando penso meno, mi distrago. Il mio cervello respira. E tu? Quando ha deciso di sganciare quelle bombe? Autorizzato. ho autorizzato lo scarico ieri mattina all'alba. E l'attacco? Tarda mattinata. Aveva in mente un obiettivo preciso? Forse. Forse no. È importante. Sono morte molte persone. Penso che tutto abbia importanza. La morte non è importante. Muoiono persone in continuazione. Non frega niente a nessuno. Scusi, ma adesso sta scherzando? Ma pensavo che la sua fosse una battuta. Quando la morte acquista importanza? In questo caso. Quindi mi dica, aveva in mente non un obiettivo preciso? Potrei anche mentirle, eh? Non lo farebbe. Non lo farebbe perché? Perché non le converrebbe. Scusa, cosa servirebbe mentirmi? Mentirebbe a me e a nessun altro. Nessuno saprebbe che è stato lei a mentire. Penserebbero tutti che sia stato io. Cosa poi più probabile, visto che il giornalismo non fa altro che perdere credibilità. Ma a lei non interessa questo. A lei interesso io, a lei interessa questa conversazione. Altrimenti non mi avrebbe chiamato fin qui per poi riempirmi di corbellerie. Quindi quello che mi domando è che cosa cerca. Signore, lei ha appena scatenato una guerra che potrebbe durare per più di 20 anni. Ha ucciso più di 1 milione di persone. Quello che sta cercando goffamente di lasciare intendere che lo abbia fatto per uno stupido capriccio ed è pronta ad ucciderne molte di più. Quindi, che cosa vuole da me? Vuole redimersi? Vuole scusarsi? Vuole che io la perdoni? Lei mi chiama qui con la scusa di voler rilasciare un'intervista. Ma non era benché minima intenzione. Sa benissimo che nessuno, oltre al sottoscritto, saprà mai quello che ci diremo in questa stanza e lei vorrebbe mentirmi. No, non lo farà. Neanche per un istante. È interessante. Mi piace, mi piace. Non devi aver amato molto, vero? Senti, scusi, non voglio rispondere. Hai amato i tuoi genitori? Non voglio parlarne, per favore. Almeno tua madre. Preferirei andare avanti con... Nella vita bisognerebbe... Per favore, basta. In cosa credi? Scusi, in che senso? Dovrai pur credere in qualcosa. Vuole sapere se crede in Dio? Credi in Dio? Penso che non ci sia più nessuno che creda in Dio. No, non ne hai la minima idea. Dio è dappertutto. C'è sempre stato, sempre ci sarà. Finché ci saranno degli uomini disposti a farci credere che esista. E perché dovrebbero? Perché è più facile. Facile? Utile. Che poi è la stessa cosa. Tutti si servono di Dio. Nancy Babich! Dica, signore. Aggiornami sui rivoltosi. Gli ultimi dati raccolti sono questi, signore. Il gruppo rivoltoso denominato Gli Apostoli è una formazione di tipo terroristica, armata, che agisce in molte zone dell'East. Interessante, no, questo gruppo? Loro rivendicano la ridistribuzione dei beni. Delle risorse, bla bla bla bla. Grazie. Dovere, signore. Gli apostoli in cosa credono secondo te? In Dio? Lo chiedo a te. In cosa credevano gli apostoli? Gli apostoli di Gesù Cristo. Esatto. In Gesù Cristo. Ovvero? Nella parola di Dio. E cos'era la parola di Dio? Speranza. Illusione. Speranza. Speranza. Ma la speranza non ha una forma concreta, no? Non credevano nelle energie rinnovabili, nella rifecondazione dei terreni, coltivabili. Rifletta. Credevano nell'aria. Credevano in degli ideali. Esatto. E in cosa credono questi nuovi apostoli? Nella parola di Dio. Dio è uno strumento. Grazie alla sua parola abbiamo convinto uomini a fare cose che il cervello umano faticherebbe ad immaginare. Credono nell'uguaglianza. E poi? Nelle possibilità. Nelle necessità. Esatto, nelle necessità. Credono nel potere, è sempre stato così. Dio è potere, Dio è onnipotenza. No, Dio è uguaglianza. No, Dio è potere, non può essere uguaglianza. È una contraddizione in termini. Il potere non è uguale per tutti. Beh, ma potrebbe anche essere condiviso. Sciocchezze. La possibilità di esercitare un potere è qualcosa che non si condivide. Scusi, ma cosa c'entra Dio adesso? È l'unica bandiera sotto la quale possono radunarsi milioni di uomini disposti a qualsiasi cosa, e questo è puro potere. E chiunque pensi, anche lontanamente, che possa condividersi, non ha un briciolo di cervello. La fede è condivisione. La fede! Chi ha parlato di fede, io parlo di potere. Il potere non si condivide, ma la possibilità di distribuirsi. No, ha la possibilità di annientarsi per poi riformarsi da un'altra parte. Nancy Babbage. Signore. Parlami della minaccia corrente. Il gruppo rivoltoso sta minacciando il nostro sistema di sicurezza. Si pensa che vogliano infettare il sistema con un virus per arrivare ai codici delle testate nucleari. E quanto è attendibile questa minaccia? Piuttosto attendibile. Grazie. Dovere, signore. Il capo degli apostoli mi ha mandato un messaggio. Vuole infiltrarsi nel mio sistema di sicurezza, rubarmi i codici. E questo la sorprende? No. Il potere non mi sorprende mai, deve sempre viaggiare, spostarsi, infettare qualcun altro, è come una sanguisuga che succhia l'anima degli individui fino a prosciugare. Per poi cambiare corpo e ricominciare da capo. E crede che loro vogliano potere? Beh, sicuramente vogliono contrastarlo, non crede? Ma per contrastarlo hanno bisogno di altro potere. Bravo! Lei chi è? Il potere. Davvero? Sono quel potere che dà potere. Io sono un uomo d'economia. Ah, dunque lei è un dio. Ma così mi fa arrossire. È ricco? No, so dove è collocato il denaro. E dove è collocato? Ovunque, mi creda, ovunque, basta saperlo vedere. Non parlo di denaro liquido, naturalmente, parlo di opportunità. E dove sarebbero queste opportunità? Guardi, mi spiace contraddirla, ma non credo che lei... Vorrei che mi si desse del tu quando mi si contraddice. Mi spiace contraddirti, ma non credo che tu sappia di cosa stai parlando. Non esistono le opportunità, danni, esiste la ricchezza ed esiste la povertà. Esistono da sempre. Sì, ma lo squilibrio è diventato troppo alto. Esatto, e qual è il problema? Perché ho ucciso quelle persone? Per salvarne altre. Per salvarne altre. Sì, a volte le persone devono morire. Beh, dobbiamo tutti morire. Fortunatamente però c'è chi sa decidere meglio della vita degli altri. Tu ad esempio. Io? Perché inside? Inside, west side. Non avrebbe fatto differenza. Certo, una delle due parti doveva essere attaccata. Minacciata. La paura è il motore più potente quando si scatena una guerra. Perché questa intervista? Io gliel'ho detto. Perché è importante che si sappia il come. E chi dovrebbe saperlo? Il futuro. Il futuro. Io sono... Ho creato io tutto questo. Ho creato io questo equilibrio nel quale viviamo da non so neanche qua. Ma sono stato io ed è bene che tu lo sappia. L'equilibrio non si regge sulla pace, ma sulla minaccia di una guerra. Non illudiamoci del contrario. Quindi lei adesso mi sta dicendo che ha deciso di uccidere più di un milione di persone per rompere un equilibrio? Sì, no, no. No. Ho ucciso quelle persone per creare un nuovo equilibrio. Non facciamo finta di non capire. Ci sono 7 miliardi di persone su questa terra, di più. Un milione a confronto è misera cosa. Io ho scatenato una rissa. Non una guerra. No, signore, lei ha scatenato proprio una guerra. Lei ha fatto in modo che una delle due parti del mondo si sentisse attaccata. Minacciata. Sì, ma lei è attaccata. Era una minaccia concreta, ma sempre di minaccia si tratta. Il resto lo faranno loro. Giusto. Fate in modo che qualcuno avesse un pretesto. No, ho creato i presupposti perché il pretesto nascesse. Io non regalo caramelle, De Bois, io regalo bombe. Le bombe sono pericolose, eh? E a volte esplodono! No. Se non volessimo farle esplodere, non dovremmo fabbricarle, pure le fabbrichiamo. E che cosa credi? Nelle soluzioni. Ovvero? Credo ci sia una soluzione ad ogni problema, buona o brutta che sia. Tu non esisti. Tu hai dato via di un massacro senza avere un'identità. Non occorre un'identità quando si hanno le soluzioni. Questo non è un gioco. Chi ha parlato di gioco? Parlo di soluzioni. La soluzione non è la morte. Ah, la soluzione può essere la morte. No. No. Quella è l'ultima soluzione. Non può risolvere una crisi economica dimezzando la popolazione mondiale. Il sacrificio non può e non deve portare a questo. Perché? Perché le persone esistono. Vivono, respirano, agiscono, hanno bisogno di una guida. Di una guida vera. Solo quando un uomo si rende conto di non avere nulla, nulla di tutto quello che aveva, allora può rendersi conto che forse potrà avere tutto. No, esiste il cambiamento. Esiste il potere. È il potere che cambia. Mi scusi, io non credo in questo. Ah, come gli apostoli. Anche loro credono nel cambiamento, anche loro credono che un massacro si possa evitare. Ma loro credono nella speranza. Nella speranza concreta che possano esserci delle soluzioni a questa violenza. Eppure rispondono a questa violenza con altrettanta violenza. Beh, evidentemente si saranno resi conto che è l'unico modo possibile. No, che è l'unico modo plausibile. Immagino che avrebbero evitato molto volentieri tutto. E allora perché vogliono rubare i codici delle mie bombe? Signore, mi perdoni. La minaccia è sempre più attendibile. Ipotizziamo che il gruppo rivoltoso sia già riuscito ad infiltrarsi nel nostro sistema. Com'è morta tua madre? È stata uccisa. Eri con lei quando è morta? Sì, bene. C'è da ridere. Ci sono delle cose che trovo estremamente divertenti. Ad esempio? Ad esempio, tutta questa situazione. Il fatto di stare qui a parlare lo trovo buffo. È vero? Sì. Invece io penso che non ci sia proprio niente da ridere. No? Davvero? Peccato. Dovresti avere più senso dell'umorismo, De Bois. Senso dell'umorismo? E qual è il tuo? O male non ti farebbe. Io non riesco nemmeno ad immaginare di essere proprio come te. Ah, ti sorprenderebbe sapere quante cose io e te abbiamo in comune. C'è una pistola in fondo ad un cassetto. Il signore l'ha preparata lì. Mi ha detto di ricordarglielo se se ne fosse dimenticato. La prenda. Voleva un bicchiere d'acqua. È ufficiale. Il gruppo ribelle si è infiltrato nel nostro sistema. Lo so. Posso congratularmi con lei? È la prima volta che qualcuno riesce ad infiltrarsi nel nostro sistema. Ma devo avvertirla che da questo momento io dovrò abbandonarla. Ho il compito di disattivarmi non appena capisca di non poter risolvere la minaccia. Buona fortuna. Addio. Grazie. Nancy Babbage. Dov'è? Signore. avrebbe senso. C'è un senso in tutto. Dunque lo sapevi? Cosa? Sapevi che ero io a capo degli apostoli? Certo. E sapevi che sarei venuto proprio io? Non avresti mai mandato qualcun altro. E tu che ne sai? Perché io non avrei mai mandato qualcun altro. Senti. E vuoi uccidermi? Dovrei. Beh, sei il capo degli apostoli. Hai fatto tutta questa strada per trovarmi, infiltrarti, sederti davanti a me. Non vuoi uccidermi? Dammi i codici. Per farne cosa? Tu cominci con darmi i codici. Da quanto tempo non ami qualcuno? Dammi i codici! Ma no, rispondi. Fratello. Forse non ho mai amato proprio nessuno. Forse sì. Ma che importanza ha? Che cosa ne sai tu dell'amore? Tu te ne stai seduto qui, con quell'aria da innocente stampata in faccia, e tu mi parli di amore? Questo sarebbe abbastanza per spararti. E fallo allora! Dammi i codici! E tu impara a chiederli. Per favore. Rispondi a una domanda, se non vuoi uccidermi, perché sei venuto? Per guardarti in faccia. Per guardarmi in faccia. Sì, sai, noi siamo abituati a fare così, ci piace conoscere i nostri nemici. Ah, tu pensi di conoscermi? Guarda che abbiamo scoperto tutto su di te. Ma noi non siamo criminali. Io non sono un criminale, il criminale qui dentro sei proprio tu. Mi fai una tenerezza. Tenerezza? Io? E perché? Perché la tua ingenuità è disarmante. Tu pensi di conoscermi, pensi che io sia il cattivo, è tutto così tenero. Ora basta, dammi i codici. Ma non ti sei stancato di essere così integerrimo, eh? Non ti rendi conto che sei di fronte a una rivoluzione? Una rivoluzione? Una rivoluzione! Questo è uno sterminio! Lo sterminio è una rivoluzione! Quindi per te eliminare, cancellare milioni di persone sarebbe una rivoluzione! Oddio, tu sei completamente pazzo! No, signore, io sono equo. E io ho fatto la mia parte, adesso sto passando la mano a te, a te. Muovi le tue pedine, te ne sto dando l'autorità. Ma quell'autorità tu ci stai uccidendo. Tu vuoi ucciderci tu. Ma stiamo già morendo e sto solo abbreviando la nostra sofferenza. Non avresti dovuto! Sono le nostre vite quelle con cui stai giocando! Hai ragione. Non avrei dovuto. Ma non sono le vostre vite, voi non vivete. Sono io che ve lo permetto. Ma non lo credo. Non lo capisci. Non voglio solo che tu sia presente. Io voglio che tu ne prenda parte. Tu non puoi chiedermi questo. Io non lo chiedo, io lo esigo. Ah, lo esigo. Cosa faresti senza di me? Che cosa fareste tutti senza di me? Incapaci di qualsiasi cosa, brancolate al buio, aggrappandovi a destra e a sinistra a degli ideali ingenui, vecchi, di centinaia di anni, vi ribellate contro chi? Contro quelli come te. Quelli come te. La vostra coscienza vi rende più spietati di noi, ma siete ciechi e non lo vedete. La nostra coscienza è il motivo per cui combattiamo. In tutta l'istante non è rimasto niente. Noi non abbiamo più niente. Tu hai creato l'inferno. Perché non riesci a vederlo? Cosa ci sarebbe da vedere? Il potere. Il tuo piccolo gruppo di attaccabrighe non può nulla contro questo inferno. Ti sto dando l'unica via percorribile. Prendila. Rispondi agli attacchi. Distruggi tutto ciò che è passato e presente. Quindi tu mi stai chiedendo adesso che dovremmo aiutarti a cancellare milioni di persone in diverse parti del mondo e io dovrei accettarlo. E tu questo me lo chiami mondo, questo pezzo di terra che abbiamo massacrato, umiliato, abbandonato, lo chiami mondo? E allora salvalo! E cosa credi che stia facendo? La vita è necessaria. Ah no, la vita non è necessaria. Non è così. Noi non agiamo così. No, voi non agite! Punto! Tu non credi in niente! Tu lo sai perché gli idealisti perdono sempre? Che cosa? Le guerre, perché gli idealisti perdono sempre? Non lo so, dimmelo tu. Perché voi pensate sia sempre necessario un motivo per fare qualcosa? Sempre necessaria una ragione per compiere un gesto anche violento? E perché vincete sempre voi? Perché noi ci limitiamo a fare qualcosa semplicemente per il senso stesso di quel qualcosa. Amiamo perché si ama. Viviamo perché c'è la vita. Moriamo perché si muore. Se lo sterminio è l'unica via, non abbiamo paura di andare lì. Perché uccidere tutte quelle persone? Perché i numeri non spiegano tutto. Perché lo fai? Perché è necessario. Non ti credo! Dai! L'ho fatto perché era necessario iniziare qualcosa che tu avresti portato a termine. Hai le mani insanguinate quanto le mie se non ti rendi conto che questa è l'unica ragione. Il mio gruppo non porterà avanti la tua guerra. No, e allora cosa? Ti servono i codici allora? Devi dare che tu possa continuarla. Ma io non ho intenzione di continuarla. Ti tiri fuori, sì, naturalmente. Perché? Perché? Perché tu... Perché tu sarai guida che tanto desiderano. Io sarò il cattivo. E tu... Tu pensi che ti ucciderò? O mi ucciderai? Per quale motivo? Quali tanti motivi? L'orgoglio. La vendetta. La soddisfazione personale. Perché avrai il coraggio di prendere il mio posto. E fare quello che deve essere fatto. Dimmi almeno una cosa prima. Cosa? Perché proprio l'insight? Perché mi ha scivolato il dito. Te l'ho detto, sono io che decido. Allora, hai parlato di potere legittimo e illegittimo. Che cosa ti fa pensare che tu sia legittimato a fare quello che hai fatto? Perché io sono legittimato a farlo. Ah. E chi ti ha dato questa certezza? Me la sono data da me. Io sono il potere, te lo sei dimenticato. Ti sto dando io questa opportunità. Che non consideri una cosa? Cosa? Che io ho il potere di rifiutare. No, no. Tu pensi davvero che io sia solo un pazzo che gioca con delle bombe? Non consideri che forse questo pazzo ha dato il là? Ad un vaso che già stava lì per traboccare. Ma chi l'ha riempito questo vaso? No, per favore, non iniziare a condividere i tuoi peccati. Ma sono i peccati di tutti. Chi non ha colpa? Ma quale colpa? Ma che cosa immaginavi che noi non avremmo reagito? Voi ci avete costretti. Voi? La gente come te. Ah, e voi cosa avete fatto? Noi abbiamo reagito. Voi siete rimasti a guardare. Anche se non volete ammetterlo, più di tutti aspettavate questa guerra. Catastrofe, rivoluzione. Chiamala come meglio credi. Nella storia siamo sempre stati noi, a orchestrare le rivoluzioni. Ma siete stati voi a fomentarle, non noi. Non è questo potere che scatena le guerre. Ah, è nostro. Vi fidate degli esseri umani? Ma che cos'altro dovremmo fare? Offrire soluzioni! Soluzione. È così che si fa? Che fate voi? Coraggio. Prendami un minuto, è un'esperienza nuova. È difficile. Cosa? Morire. Devi solo chiudere gli occhi. Respirare. E avere sulle tue palpebre nere l'immagine di quello che hai fatto. Una distesa di esseri umani agonizzanti. Di uomini che si svegliano ogni giorno e vivono. Vivono con un solo pensiero nella testa. Domani potrebbe non esserci più niente. Pensi davvero che inizieranno a vivere così? Viviamo già così. Quello che accadrà sarà peggio. Loro si sveglieranno sapendo che non ci sarà un domani. E tu? Tu, codardo? Tu non vuoi sopravvivere a tutto questo? Oggi? Cosa? Oggi non c'è niente. Domani sarà la vita. Non ci sarà un domani. Coraggio. È troppo difficile! Ma se facessi così? Sei tu che decidi? Sì, sì, sono io che decido! Dammi i codici. Tu pensi che non lo farò? Dove sono i codici? Non sono qui. Credi davvero che t'avrei lasciato entrare se rischiamo di perdere i codici? Tu pensavi davvero che avremmo usato un virus per infiltrarci? No, beh sì, l'ho pensato. Ma non avrei mai pensato che tentaste di infiltrarvi fisicamente. Lo vedi? Devi fidarti un po' di più degli esseri umani. Sì. E non nasconderti dietro un giocattolino come Nancy Babbage. Non offenderla! Ha un cuore anche lei? Che non è qui. No. Ma... no, non è qui. È lei che protegge i codici? Sì. Sì, ma adesso si sta disattivando. Ma anche i tuoi codici. Cosa te lo fa pensare? Perché io li avrei. Pensi ancora che ci siano tutte queste differenze tra noi? L'unica differenza è che tu eri con nostra madre quando è morta. Di cosa stai parlando? Non me lo fa ripetere, ha una pistola? Cosa ti ha detto prima di morire? Ti ha parlato di me? Perché avrebbe dovuto parlarmi di te? Perché? Perché? Io sono... Sono tuo fratello. Tu non sei mio fratello. Io non ho fratelli. È questo che ti ha detto? Non avresti dovuto fidarti, non dovremmo mai fidarci dei nostri genitori. Io dovrei fidarmi adesso di te. E di nessun altro. Adesso basta, stai zitto. Tu sei il figlio di mia madre, l'uomo che ha preso il posto di mio padre quando lei ci abbandonò. Stai zitto. E come biasi male, mio padre era insopportabile. Non voglio ascoltarti. Ma nostra madre se n'è andata giusto in tempo, prima che mio padre... Smettila di dire nostra! Ma è la verità. No, la tua verità. No, l'unica verità. Tutto un gioco per te, vero? Tu adesso stai giocando con il mio cervello, è tutto uno scherzo per te! No, non sono mai stato tanto serio in vita mia. Tu ti svegli una mattina, prendi un bottone, distruggi mezzo mondo, poi te ne vai a pranzo come se non fosse successo niente, eh? E poi ti siedi qui di fronte a me e inizi a scavarmi dentro, ad insinuarti come un verme, a pensare che io ti obbedirò un giorno perché tu presumi di essere che cosa, mio fratello. Ma tu sei completamente pazzo! E basta dire che sono pazzo! Sono stanco di sentirtelo ripetere! Io sono tuo fratello! Se la notizia ti distrugge! Se la notizia ti intimida! Non posso farci niente. Mi odi, bene. Anch'io ti ho odiato, non sai quanto ti ho odiato. Tu non sai cosa significhi vivere un'intera vita nella consapevolezza che nessuno, neanche quella maledetta donna che ti ha messo il mondo, sappia della tua esistenza. Beh, io adesso esisto! Ho trasformato il mio odio in un disegno politico. Ho dedicato tutto me stesso a questo scopo, in modo che tu un giorno potessi trovarti dove sei ora e ricevere da me l'unica cosa che posso offrirti: il futuro. Un futuro che io non vedrò, anche questo posso accettarlo, perché tu sei parte di me. Tu sei tutto ciò che resta di me. E nella mia vita io non ho mai saputo cosa fosse la fierezza. Ho sempre sperato che forse un giorno mio fratello potesse essere fiero di me. Adesso hai diverse possibilità. Puoi prendere i codici, uccidere me, continuare questa guerra scatenando il più grande bombardamento della storia. E chi sopravvivrà sarà pronto a ricostruire tutto, da capo, a rinascere. Io non posso. E allora lascia la pistola e va. Perché io di questo lo giuro sul nostro sangue, non ti darò i codici. Ti farò gli auguri per la tua battaglia contro questa guerra, questo male che si propaga, a vista d'occhio. Oppure puoi ucciderti. Perché me? Perché è necessario. Perché me? Tu sei mio fratello e devi salvarmi. Io non posso salvarti. Tu devi. Non è la vita, non è questa la cosa importante, è l'equilibrio. L'unica cosa che conta. E io ho dato in là un nuovo processo di equilibrio che costerà tempo, fatica, denaro, sì, molte vite, ma tu sei l'unico che può restituirmi il mio di equilibrio. Non hai bisogno di questo equilibrio. Io mi sono sbilanciato in un'impresa talmente titanica da non riuscire ad allacciarmi le scarpe, le vene, i polmoni, il cuore, pulsano senza ritegno, la testa sta per esplodere. Io mi sono preso questa responsabilità. Per tua gloria personale. Ho spaccato un impero, fornito le basi per ricostruirlo. Ma per fare questo è necessario sprofondare nella colpa. È necessario sprofondare nella colpa. Tu non vuoi essere salvato. Tu hai scatenato tutto questo perché pensavi che nostra madre amasse più me che te. Io ho provato tanta di quella sofferenza, ma non riuscire a sopportarla. E ve l'ho restituita tutta. Quattro, tre, due, uno!